Capitolo 26. Un ballo di beneficenza. Al giorno d'oggi ai balli pubblici presenziano ben poche persone, oltre a coloro che danzano, ai parenti in qualche modo interessati a loro e agli chaperon. Ma al tempo in cui Molly e Cinzia erano giovani, prima delle ferrovie e delle loro conseguenze, ovvero quei treni speciali che oggigiorno portano chiunque a Londra a riempirsi gli occhi di folle gaie e di bei vestiti, partecipare a un ballo annuale di beneficenza, per quanto la prospettiva di danzare fosse passata da anni, e pur non avendo la responsabilità di fare da chaperon, era un'occasione di divertimento concessa e molto amata dalle gentili anziane signore che affollavano le città della provincia inglese. Costoro davano aria ai loro vecchi pizzi e ai loro abiti migliori, potevano vedere gli aristocratici magnati della campagna, spettegolavano con le loro coetanee e speculavano con spirito curioso e bonario sulle storie d'amore dei giovani che le circondavano. Le signorine Browning si sarebbero sentite tristemente defraudate dall'evento più allegro dell'anno se qualcosa avesse loro impedito di partecipare al ballo di beneficenza. Miss Browning si sarebbe arrabbiata e Miss Phoebe sarebbe rimasta dispiaciuta se non fossero state invitate ad Ashcombe e a Coreham dalle amiche che avevano colà e che avevano, come loro, superato 25 anni, prima lo stadio danzante della vita, ma che tuttora gradivano aggirarsi sulle scene dei loro divertimenti passati e vedere la generazione più giovane che ballava incurante del suo destino. Erano giunte su una delle due portantine che erano ancora in uso a Hollingford. Una serata come quella procurava un regolare raccolto di grano per i due vecchi che indossavano quella che veniva definita la livrea cittadina. Trottavano avanti e indietro con i loro numerosi carichi di donne e di gingheri. C'erano a disposizione alcune diligenze e alcuni calessi, ma dopo matura deliberazione Miss Browning aveva deciso di rispettare la più confortevole tradizione della portantina, che, come disse a Miss Piper, una delle sue ospiti, entra in salotto e si riempie di tepore, ti ci infili dentro e ti porta bella chiusa e comoda in un'altra stanza calda, dove puoi camminare senza dover mostrare le gambe, salendo e scendendo gli scalini. Ovviamente la portantina poteva essere usata da una persona alla volta, ma ecco che di nuovo un accenno della saggia amministrazione di Miss Browning arrangiò ogni cosa alla perfezione, come Miss Hornblower, l'altra visitatrice, ebbe a osservare. Quest'ultima partì per prima e rimase nel caldo guardaroba finché non arrivò la sua ospite. A quel punto le due fecero il loro ingresso a braccetto nella sala da ballo e trovarono dei posti adatti da cui poter assistere agli arrivi e parlare con gli amici che passavano, fino a che anche Miss Phoebe e Miss Piper non fossero venute a prendere possesso dei due posti che Miss Browning aveva avuto cura di tenere per loro. Le due signore più giovani entrarono anche loro a braccetto, ma con un certo timido fermento nello sguardo e nei movimenti, molto diverso dalla composta dignità delle due più anziane, di 2 o 3 anni. Quando tutte e quattro furono di nuovo insieme, presero fiato e iniziarono a conversare. «Parola mia, penso davvero che questa sala sia migliore della nostra courthouse ad Ashcombe. E come sono graziose le decorazioni!» esclamò Miss Piper. «Come sono fatte bene le rose! Ma voi di Hollingford avete un tale gusto!» «C'è Mrs. Dempster», strillò Miss Hornblower. «Mi ha detto che lei e le sue figlie sono state invitate a stare da Mr. Sheepshanks. Doveva esserci anche Mr. Preston. Ma immagino che non potessero starci tutti insieme. Guardate, e c'è il giovane Roscoe, il nuovo nostro medico. Dico, sembra ci sia tutta Ashcombe qui. Mr. Roscoe, venite, lasciate che vi presenti le signorine Browning, le amiche che ci ospitano. Abbiamo un'alta opinione del nostro giovane dottore, ve l'assicuro, Miss Browning.» Mr. Roscoe fece un inchino e sorrise leziosamente nel sentir fare le proprie lodi. Ma Miss Browning non aveva alcuna intenzione di permettere che un medico che si era stabilito giusto al limite del campo d'azione di Mr. Gibson ricevesse degli elogi. Perciò disse a Miss Hornblower: «Di certo, dovete essere contenti di avere qualcuno da chiamare se siete di fretta o se il caso è troppo insignificante per disturbare Mr. Gibson. E direi che Mr. Roscoe troverà un enorme vantaggio e ne avrà naturalmente la possibilità nell'assistere alla bravura di Mr. Gibson.» Probabilmente Mr. Roscoe si sarebbe sentito più addolorato da quell'osservazione se proprio in quel momento la sua attenzione non fosse stata richiamata dall'ingresso di quello stesso Mr. Gibson del quale si stava parlando. Quasi prima che Miss Browning avesse concluso quel suo commento severo e sprezzante, egli aveva chiesto alla sua amica, Miss Hornblower: chi è quella bellissima ragazza vestita di rosa appena entrata? Beh, quella è Cinzia Kirkpatrick, comunicò Miss Hornblower, sollevando un poderoso monocolo cerchiato d'oro per essere sicura della risposta. Com'è cresciuta? Di certo sono 2 o 3 anni che ha lasciato Ashcombe. Allora era molto graziosa. Si diceva che Mr. Preston la mirasse molto, ma era così giovane. Potete presentarmi? Domandò l'impaziente giovane medico. Vorrei chiederle un ballo. Quando Miss Hornblower tornò dall'aver salutato la sua vecchia conoscenza, Mrs. Gibson, e dopo aver acconsentito alla richiesta di presentazione di Mr. Roscoe, iniziò a fare a Miss Browning delle piccole confidenze. Beh, parola mia, come siamo condiscendenti. Mi ricordo il periodo in cui Mrs. Kirkpatrick indossava vecchie sete nere ed era riconoscente e cortese come si conveniva alla sua posizione di istitutrice, che doveva guadagnarsi il pane. E ora porta il satin e mi parla come se rimembrasse appena chi io sia e solo sforzandosi molto. Non è passato molto tempo da quando Mrs. Dempster venne a chiedermi se a mio parere Mrs. Kirkpatrick si sarebbe offesa se lei le avesse mandato il suo abito di seta lilà al posto di quello che era stato rovinato dal domestico di Mrs. Dempster, che ci aveva rovesciato del caffè sopra la sera prima. E lei lo accettò con gratitudine, anche se adesso è tutta vestita di satin grigio perla. E a quell'epoca sarebbe stata ben contenta di sposare Mr. Preston. Pensavo aveste detto che lui ammirava sua figlia, disse Miss Browning, interrompendo la sua irritata amica. Beh, forse sì, forse era così. Di certo non lo so dire. Lui frequentava spesso la casa. Miss Dixon gestisce ora una scuola nello stesso edificio e di certo le riesce molto meglio. Il conte e la contessa sono molto affezionati a Mrs. Gibson, osservò Miss Browning. Lo so perché ce l'ha detto Lady Harriet quando è venuta a prendere il tè da noi lo scorso autunno, e loro desideravano che Mr. Preston le dimostrasse un gran riguardo quando viveva ad Ashcombe. Per carità, non andate a ripetere a sua signoria ciò che vi ha raccontato di Mrs. Kirkpatrick e Mr. Preston. Ci si può sbagliare, vedete, ho detto solo che la gente ne parlava. Miss Hornblower aveva evidentemente paura che il suo pettegolezzo potesse essere riferito a Lady Harriet, che sembrava trovarsi in tale confidenza con le sue amiche di Hollingford. Né Miss Browning si preoccupò di dissipare quell'illusione. Lady Harriet aveva bevuto il tè con loro e avrebbe potuto rifarlo, e in ogni caso il piccolo spavento che aveva causato alla sua ospite era una giusta ricompensa per le lodi dedicate a Mr. Roscoe, che avevano offeso la lealtà di Miss Browning nei confronti di Mr. Gibson. Nel frattempo, Miss Piper e Miss Phoebe, che non si sentivano in dovere di mantenere un carattere di esprit fort, commentavano l'abbigliamento dei presenti, avendo iniziato con il rivolgersi i complimenti reciproci. Che splendido turbante indossate, Miss Phoebe, se posso dirlo. Armonizza perfettamente con la vostra carnagione. Credete? Disse Miss Piper con malcelata gratificazione. Era notevole avere una carnagione a 45 anni. L'ho preso da Brown a Somerton proprio per questo ballo. Ho pensato che dovevo mettere qualcosa per dare risalto al mio abito, che non è nuovissimo come una volta, e io non possiedo gioielli belli come i vostri. Posando uno sguardo ammirato sulla grande miniatura contornata di perle posate sul petto di Miss Phoebe. È proprio bella, replicò quest'ultima. È un ritratto della mia cara madre. Sally ha quello di mio padre. Le miniature furono eseguite nello stesso momento e quasi nello stesso periodo mio zio morì e ci lasciò un'eredità di 50 sterline ciascuna, che noi fummo d'accordo a spendere per fare incastonare le nostre miniature. Ma siccome sono così preziose, Sally le tiene sempre sotto chiave con il nostro miglior argento e nasconde la scatola da qualche parte. Non mi dice mai dove perché sostiene che io sia debole di nervi e che se un ladro puntandomi una pistola carica alla testa mi chiedesse dove teniamo l'argenteria e i gioielli, io glielo rivelerei di sicuro. Da parte sua, dice, lei non penserebbe mai di dire niente in nessuna circostanza. Di certo spero che non ci si debba trovare. Questa però è la ragione per cui non lo porto spesso. È la seconda volta che la metto. E in casa non posso neppure andare a darci una sbirciatina, cosa che mi piacerebbe. Non avrei dovuto indossarla stasera. Ma me l'ha data Sally, affermando che era un complimento adeguato da porgere alla duchessa di Menai, che sarà qui con tutti i suoi diamanti. Povera me, davvero? Sapete, non ho mai visto una duchessa prima d'ora. E Miss Piper rizzò le spalle e allungò il collo, decisa a comportarsi come si deve, come le avevano insegnato a fare a scuola 30 anni prima, in presenza di sua grazia. Dopo un po', ella disse a Miss Phoebe, cambiando improvvisamente posizione con un sussulto: «Guardate, guardate! Quello è il nostro Mr. Cholmoley, il magistrato!» Costui era la celebrità di Coreham. Ed ecco, Mrs. Cholmoley in satin rosso, e Mr. George, Mr. Harry d'Oxford, vi dico, e Mrs. Cholmoley e la graziosa Miss Sophie. Mi piacerebbe andare a parlare con loro, ma è tremendo attraversare una stanza senza un gentiluomo al fianco. E poi Cox, il macellaio, con la moglie. Beh, sembra che ci sia tutta Coreham. Come Mrs. Cox si possa permettere un abito come quello non riesco proprio a capirlo. Perché so che Mr. Cox ha avuto qualche difficoltà a pagare l'ultima pecora che ha comprato da mio fratello. Proprio in quel momento, l'orchestra, costituita da due violini, un'arpa e un clarinetto per l'occasione, avendo finito di accordarsi e raggiunta la migliore armonia possibile, attaccò una vivace contraddanza e i ballerini corsero a occupare le loro posizioni. Mrs. Gibson era segretamente un po' infastidita dal fatto che Cinzia prendesse parte a questa primissima danza, che coinvolgeva principalmente i puntuali plebei di Hollingford, i quali, se un ballo era fissato alle 8, non pensavano certo di presentarsi in ritardo e perdere così gran parte del divertimento per cui avevano pagato il loro denaro. Comunicò parte dei propri sentimenti a Molly, che sedeva accanto a lei ansiosa di danzare, battendo il tempo di quell'allegra musica con uno dei suoi bei piedini. «Il tuo caro papà è sempre così puntuale. Stasera sembra quasi un peccato, perché in verità siamo qui prima che sia arrivato qualcuno che conosciamo. Oh, io vedo tante persone che conosco. Ci sono Mister e Mrs. Smitton e la figlia, che è così dolce e simpatica. Oh, librai e macellai, se ti fa piacere. Papà ha trovato moltissimi amici con cui parlare. Pazienti, mia cara, non direi amici. Ecco, lì ci sono delle persone di bell'aspetto, scorgendo il Cholmoley, ma direi che arrivando dal circondario di Ashcombe e di Coreham non hanno calcolato bene con quanto anticipo sarebbero giunti qui. Mi domando quando arriverà il gruppo delle torri. C'è Mr. Ashton e Mr. Preston. Vieni. La stanza si sta riempendo. Ed era così, perché quello sarebbe stato un gran bel ballo, diceva la gente. Un folto gruppo di persone sarebbero giunte dalle torri e tra loro ci sarebbe stata una duchessa con i suoi diamanti. Era prevedibile che ogni grande dimora del distretto si affollasse di ospiti in occasioni come questa, ma così di buon'ora erano gli abitanti del villaggio a occupare quasi interamente la pista da ballo. I notabili sarebbero intervenuti, pochi alla volta, più tardi. Il più importante tra loro era il signore delle torri. Ma stasera la famiglia era insolitamente in ritardo e poiché l'atmosfera mancava dell'aura aristocratica, tutti coloro che si ritenevano superiori al rango plebeo della gente del villaggio danzavano senza entusiasmo. Il popolo invece si divertiva immensamente e saltava e batteva i piedi finché gli occhi scintillavano e le guance risplendevano per il movimento e l'allegria. Alcuni dei genitori più prudenti, memori dei doveri del giorno successivo, iniziarono a considerare a che ora dovessero rincasare, ciononostante persisteva la curiosità, espressa o inespressa, di vedere la duchessa e i suoi diamanti. Le pietre dei Menheith, infatti, erano celebri in circa più altolocati di quello lì raccolto, e la loro fama era trapelata fin laggiù tramite le cameriere e le governanti. Mr. Gibson doveva lasciare la sala per un certo lasso di tempo, come aveva preannunciato, ma sarebbe ritornato dalla moglie non appena avesse compiuto i propri doveri. E in sua assenza, Mrs. Gibson si tenne un poco a distanza dalle signorine Browning e dalle sue conoscenze, che si sarebbero volentieri messe a conversare con lei, progettando di attaccarsi alle gone del gruppo delle torri, non appena avesse fatto la sua comparsa. Se solo Cinzia non fosse stata così disposta a impegnarsi a ballare con chiunque glielo chiedesse. Di sicuro i giovani ospiti delle torri avrebbero aguzzato la vista in cerca di belle ragazze, e E chi poteva dire a cosa avrebbe portato una danza? Anche Molly, benché non brava come Cinzia e a causa della timidezza, meno aggraziata e leggera, riceveva e accettava moltissimi inviti. E bisogna confessare, desiderava ballare ogni danza, non importava con chi. Anche lei avrebbe potuto trovarsi impegnata e non disponibile per i compagni più aristocratici che Mrs. Gibson attendeva. Ella cominciava a essere davvero seccata per l'evolversi della serata, quando percepì la presenza di qualcuno in piedi alle sue spalle e girandosi leggermente vide che Mr. Preston sorvegliava, per così dire, i posti che Molly e Cinzia avevano appena lasciato liberi. Egli aveva un'aria così cupa che se i loro sguardi non si fossero incontrati, Mrs. Gibson avrebbe preferito non parlargli, ma a quel punto lo ritenne inevitabile. La sala non è ben illuminata stasera, vero, Mr. Preston? No. Come ne lui. Come si fa a dar luce a un colore così vecchio e sbiadito, e per di più sovraccarico di sempreverdi che oscurano sempre un ambiente? E la compagnia, poi. Dico sempre che la freschezza e la brillantezza di un abito contribuiscono di gran lunga a ravvivare una stanza. Guardate che gente c'è qui. La maggior parte delle donne veste di seta scura, che, insomma, va bene solo di mattina. Tra poco la Sara sarà ben diversa quando arriveranno i rinforzi delle famiglie nobili. Mister Preston non rispose. Aveva inforcato il suo monocolo, apparentemente allo scopo di contemplare i danzatori. Se l'esatta traiettoria del suo sguardo fosse stata esaminata, si sarebbe scoperto che stava guardando intensamente e furiosamente una figura che veleggiava in mussola rosa. In molti oltre a lui stavano fissando Cinzia con interesse, ma nessuno con rabbia. Mrs. Gibson non era un'osservatrice così attenta ad accogliere tutto questo. Ma lì c'era un bel giovanotto elegante con cui poteva chiacchierare invece di unirsi a gente sgradevole o di starsene seduta tutta sola finché non fosse arrivato il gruppo delle torri. Così perseverò con i suoi piccoli commenti. Non state danzando, Mr. Preston? No, la compagna con cui mi ero impegnato deve aver commesso un errore. Sto aspettando di avere con lei un chiarimento. Mrs. Gibson tacque. Parve sopraffatta da un'inquietante ondata di ricordi, come Mr. Preston guardò Cinzia. La danza era finita e lei camminava intorno alla stanza nella quieta ignoranza di ciò che l'aspettava. Subito il suo compagno, Mr. Herschel Molly, la portò al suo posto. Lei sedette accanto a Mr. Preston, lasciando la sedia vuota vicino alla madre per Molly. Per quest'ultima ritornò un momento dopo. Cinzia sembrava totalmente ignara della vicinanza di Mr. Preston. Mrs. Gibson si chinò in avanti e disse alla figlia: Il tuo ultimo compagno era un gentiluomo, mia cara. Stai migliorando nelle tue scelte. Prima mi sono davvero vergognata per te che ballavi con l'impiegato di un avvocato. Molly, lo sai con chi hai danzato? Ho scoperto che è il libraio di Coreham. Questo spiega perché fossi così ben informata su tutti i libri di cui volevo sentir parlare, rispose Molly con entusiasmo e anche con un tocco di malizia. Era davvero molto gradevole, mamma, aggiunse. Sembra proprio un gentiluomo e balla benissimo. Molto bene, ma ricorda che se continui così, domattina dovrai stringere le mani ad alcuni dei tuoi compagni di stasera sopra il bancone di una bottega, commentò freddamente Mrs. Gibson. Ma davvero non so come fare a rifiutare quando le persone alle quali sono stata presentata mi invitano e poi ho voglia di ballare. Sapete, questo è un ballo di beneficenza e papà dice che tutti danzano con tutti. Ribatté Molly con voce implorante. Infatti, non era capace di divertirsi del tutto se era in disaccordo con qualcuno. Quale replica Mrs. Gibson potesse fare a questo discorso, ora non lo possiamo sapere, perché prima che potesse parlare, Mr. Preston fece un passo avanti e disse con un tono che dimostrava gelida indifferenza, ma che tremava di rabbia: Se Miss Gibson trova difficoltà a rifiutare un compagno, deve solo chiedere istruzioni a Miss Kirkpatrick. Cinzia alzò i suoi begli occhi e puntandoli sul volto di Mr. Preston, disse molto calma, come esprimendo un semplice dato di fatto. Dimenticate, credo, Mr. Preston. Miss Gibson voleva dire che desiderava danzare con coloro che l'avevano invitata. È molto diverso. Io non sono in grado di suggerirle come comportarsi in questo tipo di difficoltà. Al resto di quella breve conversazione, Cinzia sembrò non porgere orecchio e quasi immediatamente fu reclamata dal suo prossimo compagno. Mr. Preston prese il posto rimasto vuoto, con gran fastidio di Molly, Da principio ella temeva che le chiedesse di ballare, ma invece gli allungò la mano verso il bouquet di cinzia, lasciato lì alle cure di Molly quando si era alzata. I fiori avevano sofferto molto per il caldo della sala e non erano più freschi e fulgidi, non come quelli del mazzolino di Molly che, tanto per cominciare, non era stato distrutto per sfilar via i fiori rossi che adornavano i suoi capelli e che inoltre era stato trattato con maggiore riguardo. Restava tuttavia abbastanza del bouquet di cinzia per mostrare distintamente che non si trattava di quello che le aveva mandato Mr. Preston, e fu forse per convincersi di questo che egli, in silenzio, fece per esaminarlo. Ma Molly, fedele a quello che riteneva essere il desiderio di Cinzia, rifiutò di consentirgli di toccarlo. Lo tirò solo un po' più vicino a sé. Miss Kirkpatrick non mi ha fatto l'onore di portare il bouquet che le ho mandato, vedo. L'ha ricevuto, immagino, insieme al mio biglietto? Sì, rispose Molly, piuttosto intimidita dal tono di quelle parole. Ma avevamo già accettato questi due. Mrs. Gibson era la persona giusta per venire in soccorso con le sue parole di miele in occasione come quella. Era evidentemente spaventata da Mr. Preston e desiderava restare in pace con lui. Oh, sì. C'è tanto dispiaciuto. Naturalmente non intendo dire che potessimo dispiacerci per la cortesia di qualcuno, ma due così bei mazzolini sono arrivati da Hamley Hall. Potete vedere come sono belli da quello che Molly tiene in mano. E sono arrivati prima del vostro, Mr. Preston. Mi sarei sentito onorato se il mio l'aveste accettato voi, già che le ragazze erano così ben fornite. Mi sono dato piuttosto da fare a scegliere i fiori da Green. Penso di poter dire che sia molto più recherché di quello di Miss Kirkpatrick, che Miss Gibson stringe con tanta cura e così saldamente. Oh, ma questo perché Cinzia ha tolto i fiori più vivaci per metterli fra i capelli, spiegò Molly con convinzione. Ah sì, fece Mr. Preston con un certo accenno di piacere nella voce, come lieto di sentire che la giovane avesse dato così poca importanza ai fiori, e si allontanò per disporsi alle spalle di Cinzia nella quadriglia in corso. E Molly lo vide costringerla a parlargli contro la sua volontà, ne era certa. Ma per qualche ragione il viso e i modi di lui significavano che lei era in suo potere. Cinzia appariva seria, sorda, indifferente, indignata, insolente, ma dopo un dialogo mezzo sussurrato alla fine della danza, ella evidentemente acconsentì con impazienza a ciò che lui le chiedeva, perché l'uomo si allontanò con uno sgradevole sorriso di soddisfazione sul suo bel viso. Nel frattempo si erano intensificati i mormori a proposito del ritardo del gruppo delle torri e una alla volta le persone si avvicinarono a Mrs. Gibson come se lei fosse l'autorità accreditata in merito ai progetti del conte e della contessa. In un certo senso ella si sentiva lusingata, peraltro l'affermazione della propria ignoranza e della propria sorpresa la ridusse a livello di coloro che la interrogavano. Mrs. Goodenough era particolarmente addolorata. Aveva tenuto indosso gli occhiali per l'ultima ora e mezza per essere pronta quando, da un momento all'altro, qualcuno della famiglia fosse apparso sulla porta. Avevo mal di testa, si lamentò, e avrei dovuto mandare i soldi e non uscire stasera, perché di balli qui ne ho visti parecchi, ho visto anche Milord e Milady al tempo in cui meritavano di essere guardati più di adesso. Ma tutti parlavano della duchessa e la duchessa e i suoi diamanti, io ho pensato che non avrei voluto mostrarmi in svantaggio e non aver mai visto la duchessa e i diamanti. Così sono qui e a casa il carbone e le candele vanno sprecati, perché ho chiesto a Sally di star seduta ad aspettarmi. E la cosa che detesto di più sono gli sprechi. Sono come mia madre, che era una persona contraria agli sprechi come oggi non ne potreste trovare. Governava la casa in modo straordinario e ha cresciuto 9 figli con meno di quanto chiunque sarebbe riuscito a fare, ve lo assicuro. Beh, non vi avrebbe permesso di essere stravaganti, neanche in tema di raffreddori. Ogni volta che uno di noi aveva un brutto raffreddore, lei coglieva l'occasione e ci tagliava i capelli. Infatti diceva che non aveva senso avere 2 raffreddori quando ne sarebbe bastato uno e tagliarci i capelli ci avrebbe certamente fatto venire il raffreddore. Ciò nonostante, vorrei che la duchessa arrivasse. Ma pensate cosa significhi per me, sospirò Mrs. Gibson. È così tanto tempo che non vedo la cara famiglia. Li ho visti così poco l'altro giorno quando sono stata alle torri. La duchessa voleva la mia opinione sul corredo di Lady Alice e continuava a farmi così tante domande che hanno impegnato tutto il tempo. E le ultime parole di Harriet sono state che non vedeva l'ora di incontrarmi stasera. È quasi mezzanotte. Chiunque nutrisse una qualunque pretesa di distinzione sociale fu molto addolorato dall'assenza della famiglia delle Torri. Persino i violinisti parvero riluttanti a iniziare a suonare una danza che poteva essere interrotta dall'ingresso dei nobili. Miss Phoebe Browning si era scusata per loro. Miss Browning le aveva biasimati con calma dignità. Soli i macellai, i fornai e i candelai godevano dell'assenza di restrizioni ed erano ilari e felici. Alla fine ci fu un rumoreggiare, un affrettarsi, un sussurrare e la musica si interruppe, così che anche i ballerini dovettero fermarsi. Ed ecco Lord Kemnor, vestito in pompa magna, con al braccio una donna grassa di mezz'età, abbigliata quasi come una ragazzina. Mussola a fiorami, fiori veri fra i capelli e nessuna traccia di un gioiello o di un diamante. Eppure doveva trattarsi della duchessa, ma cos'era una duchessa senza diamanti e con un abito che avrebbe potuto indossare la figlia del contadino Hodson? Era la duchessa? Poteva essere la duchessa? La piccola folla di curiosi intorno a Mrs. Gibson si infittì per sentirla confermare i loro delusi sospetti. Dietro la duchessa entrò Lady Kemnor, che sembrava Lady Macbeth in velluto nero. Una nube le oscurava il viso, resa più evidente dalle linee dell'età che si intrecciavano rapidamente sul suo bel volto, e Lady Harriet e le altre signore, tra cui una vestita in modo così simile alla duchessa, da far pensare di essere sua sorella anziché sua figlia, per quanto riguardava l'abbigliamento. C'era Lord Hollingford, viso bruttino, personale goffo, modi squisiti, e una mezza dozzina di giovanotti. Lord Albert Monson, il capitano James e altri della loro età e posizione, che entrarono con un'espressione indistinta se non critica. Il gruppo tanto atteso sfilò fino ai posti riservati alla testa della sala, apparentemente incurante dell'interruzione che avevano provocato. I ballerini infatti si erano fatti da parte e quasi si erano dispersi per tornare a posto, e quando Money Musk riprese, neanche la metà dei danzatori di prima si rialzò per ricominciare a ballare. Lady Harriet, che era molto diversa da Miss Piper e non faceva caso ad attraversare la stanza da sola più che se gli astanti fossero stati dei cavoli, individuò abbastanza in fretta le Gibson e percorse la sala per avvicinarle. Eccoci finalmente. Come state, care? Beh, piccolina, a Molly. Come vi siete fatta graziosa? Non siamo vergognosamente in ritardo. Ah, è solo mezzanotte e mezza, disse Mrs. Gibson, e direi che avete cenato molto tardi. Non è questo, è quella sgarbata donna che se n'è andata nella sua stanza dopo che abbiamo finito di cenare e lei e Lady Alice sono rimaste lì dentro invisibili finché non abbiamo pensato che stessero indossando qualcosa di splendido, come avrebbero dovuto fare. E alle 10:30, quando la mamma ha mandato a dire loro che le carrozze erano alla porta, la duchessa ha chiesto che le venisse portato del brodo e alla fine è apparsa l'enfant, come la vedete. La mamma è così arrabbiata con lei e alcuni degli altri sono seccati per non essere arrivati prima. Un paio di loro hanno cominciato a dire che non sarebbero venuti affatto. Papà è l'unico a non essersi risentito. Poi, voltandosi verso Molly, Lady Harriet chiese: Avete danzato molto, Miss Gibson? Sì, non tutti i balli, ma quasi. Era una domanda piuttosto semplice, ma il fatto che Lady Harriet, tra tutti, parlasse proprio con Molly era per Mrs. Gibson quasi come lo sventolare un drappo rosso davanti a un toro. Era la sola cosa che di sicuro le avrebbe fatto perdere le staffe. Ma per niente al mondo avrebbe dimostrato questo sentimento Lady Harriet. Tuttavia, si sforzò di ostacolare qualsiasi tentativo di ulteriore conversazione tra le due, mettendosi fra loro nello spazio lasciato vuoto da Cinzia che Lady Harriet aveva chiesto a Molly di occupare. Non tornerò da quelle persone, sono così furiosa con loro. E poi l'altro giorno vi ho vista appena e devo scambiare qualche pettegolezzo con voi. Così Lady Harriet sedette accanto a Mrs. Gibson e, come ebbe a dire in seguito Mrs. Goodenough, sembrava proprio una come gli altri. Mrs. Goodenough si espresse così per giustificarsi per una piccola disavventura che le era capitata. Con gli occhiali sul naso, ella aveva deliberatamente scrutato i grandi accomodati in campo alla sala. E con voce non particolarmente misurata aveva chiesto chi fossero a Mr. Sheepshanks, intendente di Milord e suo ottimo vicino, il quale aveva tentato invano di smorzare il risonante ardore delle sue richieste di informazioni rispondendole a sussurri. ma lei era sorda tanto quanto miope, cosicché il volume basso della voce dell'uomo non fece che suscitare ulteriori interrogazioni. Ora, soddisfatta per quanto le fosse possibile sul punto di congedarsi, mentre il fuoco e le luci delle candele andavano estinguendosi, ella si fermò di fronte a Mrs. Gibson e così l'apostrofò per riprendere il loro precedente argomento di conversazione. «Non ho mai visto una simile sciatteria in una duchessa, neanche l'ombra di un amante addosso. Nessuno di loro merita di essere guardato, a eccezione della contessa che è sempre avvenente e non robusta come una volta. Ma di certo non valeva la pena aspettarli fino a quest'ora della notte». Ci fu un momento di pausa. Poi Lady Harriet tese la mano e disse: «Voi non vi ricordate di me, ma io vi conosco. Vi ho vista alle torri. Lady Kemnor è molto più esile di un tempo, ma speriamo che la sua salute ne abbia trovato giovamento». «È Lady Harriet», disse Mrs. Gibson a Mrs. Goodenough con sconcertata reprimenda. «Povera me, vostra signoria, spero di non avervi offesa. Ma capite, voglio dire, vostra signoria capisce che è tardi per gente come me e sono rimasta fuori dal letto solo per vedere la duchessa che, pensavo, sarebbe venuta con i diamanti e un diadema. E alla mia età è irritante ritrovarsi delusi nell'unica occasione che si possa avere di vedere qualcosa di così raffinato». «Sono irritata anch'io», dichiarò Lady Harriet. «Avrei voluto arrivare presto, invece eccoci qua, è tardissimo. Sono così contrariata e di malumore che sarei felice di rifugiarmi a letto all'ora in cui lo farete voi». Parlò con una tale dolcezza che Mrs. Goodenough si rilassò in un sorriso e la sua rigidità si trasformò in un complimento. «Non credo che vostra signoria possa essere contrariata e di malumore con quel viso così bello. Sono un'anziana signora, perciò potete consentirmi di affermarlo». Lady Harriet si alzò e fece una piccola riverenza, poi tendendo la mano replicò: «Non vi tratterrò oltre, ma prometto una cosa in cambio delle vostre belle parole. Se mai sarò duchessa, verrò da voi a farmi vedere, con indosso tutti i miei abiti e i miei ninnoli. Buonanotte, mia signora». «Ecco, sapevo come sarebbe andata», commentò poi senza risedersi, «e alla vigilia di un'elezione oltretutto. Non dovete considerare Mrs. Goodenough come un esempio, cara Lady Harriet. È una brontolona. Sono certa che nessun altro si lamenterà del vostro essere arrivati all'ora che desideravate», la rassicurò Mrs. Gibson. «Voi che ne dite, Molly?» chiese Lady Harriet, puntando improvvisamente gli occhi sul viso di Molly. «Non credete che abbiamo perso un po' della nostra popolarità, che in questo periodo significa voti, arrivando così tardi? Andiamo, rispondetemi. Un tempo eravate famosa come piccola dispensatrice di verità». «Non so nulla di popolarità o di voti», rispose Molly piuttosto malvolentieri, «ma penso che a molti sia dispiaciuto che non siate arrivati prima. E questa non è proprio una prova della vostra popolarità?» aggiunse. «Ecco, una risposta molto elegante e diplomatica», sorrise Lady Harriet, picchiettando con il ventaglio la guancia di Molly. «Molly non sa niente», protestò Mrs. Gibson, abbassando un poco la guardia. «Sarebbe molto impertinente se lei o chiunque altro contestasse il perfetto diritto di Lady Kemnor di arrivare quando più le aggrada». «Beh, tutto ciò che so io è che ora deve tornare da mia madre, ma tra un po' farà un'altra scorribanda da queste parti e voi dovete tenermi un posto». «Ah, ecco, le signorine Browning, vedete che non dimentico la lezione, Miss Gibson?» «Molly, non ti permetto di parlare Lady Harriet in quel modo», disse Mrs. Gibson, non appena fu lasciata sola con la figliastra. «Non l'avresti mai conosciuto se non fosse stato per me e non continuare sempre a intrometterti nelle nostre conversazioni». «Ma devo parlare se mi fa delle domande», si difese Molly. «Beh, se devi, devi, lo riconosco. In ogni caso, su questo sono sincera. Ma non c'è bisogno che tu dimostri di avere delle opinioni alla tua età». «Non posso farne a meno», affermò Molly. «Lei è una persona così eccentrica. Guarda se non sta parlando con Miss Phoebe. E Miss Phoebe è così impressionabile che si persuaderà facilmente a credere di essere molto intima con Lady Harriet. Se c'è una cosa che detesto sopra ogni cosa è il tentativo di entrare in confidenza con la gente di alto rango». Molly si sentiva sufficientemente innocente, così non offrì giustificazioni per se stessa e non rispose. In effetti era molto più occupata a osservare Cinzia. Non riusciva a comprendere il cambiamento che sembrava essere avvenuto. Ella danzava, è vero, con la stessa leggerezza e la stessa grazia di prima, ma quell'armonioso balzellare, come di piuma sospinta dal vento, era svanito. Chiacchierava con il suo compagno, ma senza la dolce animosità che di solito splendeva sul suo viso. E quando fu riaccompagnata al proprio posto, Molly notò il suo colore mutato e gli occhi distratti come in un sogno. «Qual è il problema, Cinzia?» chiese a voce molto bassa. «Niente», rispose l'altra alzando gli occhi all'improvviso e con un accento di ciò che aveva dentro. «Asprezza. Perché dovrebbe esserci? Non so, ma sembri diversa da prima, stanca o qualcos'altro». «Non c'è alcun problema e se c'è, non parlarne. È tutta una tua fantasia». Questa frase era piuttosto contraddittoria e doveva essere interpretata dall'intuito anziché dalla logica. Molly comprese che Cinzia desiderava quiete e silenzio, ma quale fu la sua sorpresa quando dopo il dialogo intercorso in precedenza e le implicazioni del comportamento di Cinzia nei confronti di Mr. Preston lo vide avvicinarsi e senza una parola offrire il braccio a Cinzia e condurla a danzare. Mrs. Gibson ne sembrò impressionata, poiché dimentica del suo recente battibecco con Molly, le chiese stupefatta come se quasi dubitasse di ciò che era evidente ai suoi sensi. «Cinzia è andata a ballare con Mr. Preston?» Molly ebbe appena il tempo di rispondere prima di essere portata via a sua volta da un compagno. Riuscì a malapena a badare a lui ai passi della quadriglia per poter osservare Cinzia fra le figure in movimento. A un certo momento colse l'immagine di lei in piedi, immobile, abbattuta, che ascoltava le parole esagitate di Mr. Preston e poi riprendeva a camminare languidamente fra i ballerini come se non si accorgesse di coloro che la circondavano. Quando lei e Molly si ricongiunsero, l'ombra sul volto di Cinzia si era incupita in tristezza. Ma allo stesso tempo, se un fisionomista avesse studiato la sua espressione, vi avrebbe letto sfida e indignazione, forse anche un po' di perplessità. Nel corso di questa quadriglia, Lady Harriet aveva parlato con il fratello. «Hollingford!» lo apostrofò, posandogli la mano sul braccio e tirandolo un poco in disparte dal gruppo di aristocratici in cui egli si trovava, silenzioso e distratto. «Non sai quanto questa brava gente sia rimasta offesa e delusa dal nostro arrivo così tardivo e dalla ridicola semplicità dell'abito della duchessa. Perché dovrebbe importargli?» chiese lui, approfittando del fatto che la sorella fosse senza fiato per la concitazione. «Oh, non essere così saggio e stupido, non vedi? Noi siamo uno spettacolo, un fenomeno. È come avere una pantomima con Arlecchino e Colombina vestiti in borghese». «Non capisco perché», cominciò lui. «Allora, credici sulla fiducia. Sono veramente un po' delusi. Non importa se sia razionale o no, e noi dobbiamo tentare una riconciliazione. Per prima cosa, perché non possiamo permetterci che i nostri vassalli abbiano l'aria insoddisfatta e sleale, e poi perché a giugno ci sono le elezioni». «Preferirei davvero uscire dalla camera che rimanerci». «Che assurdità! Papà ne sarebbe oltremodo addolorato. Ma adesso non c'è tempo per discutere di questo. Devi andare a ballare con una delle donne del villaggio. E io chiederò a Sheepshanks di presentarmi a un giovane contadino rispettabile». «Non può fare in modo che il capitano James si renda utile?» «Ecco che vada, Lady Alice. Per il prossimo ballo vedrai se non riesco a farlo presentare alla più brutta figlia di sarto che trovo». Parlando, aveva infilato il braccio sotto quello del fratello come per condurlo da una compagna, ma lui resistette, una resistenza da far pietà. «Per favore no, Harriet, sai che non sono capace di danzare, lo odio, l'ho sempre odiato, non so come cavarmela in una quadriglia». «È una contraddanza», lo corresse lei risoluta. «Fa lo stesso, e come dirò alla mia compagna?» «Non ne ho idea, non avremo alcun argomento in comune. Parlando di insoddisfazione, resteranno delusi 10 volte di più quando scopriranno che non so né ballare né conversare. Avrò pietà, non avere così paura. Ai loro occhi un lord può danzare come un orso, come fanno certi lord non molto lontani da me, se vuole. E loro la riterranno grazia. E comincerai con Molly Gibson, la figlia del tuo amico dottore. È una ragazzina buona, semplice e intelligente, cosa a cui tu, immagino, darai molta più importanza che alla mera frivolezza del suo essere molto graziosa. Claire, mi permettete di presentare mio fratello a Miss Gibson? Vorrebbe impegnarla per il prossimo ballo. Lord Hollingford, Miss Gibson». Povero Lord Hollingford, non poteva far altro che seguire l'esplicita volontà della sorella. Così lui e Molly andarono a prendere posto, ciascuno sperando di cuore che la loro danza insieme si concludesse. Lady Harriet volò da Mr. Sheepshanks per assicurarsi il proprio giovane contadino rispettabile. E Mrs. Gibson rimase sola, desiderando che Lady Kenmore mandasse uno dei gentiluomini del suo seguito a chiamarla. Sarebbe stato molto più piacevole sedere anche al margine estremo della nobiltà, piuttosto che lì su quella panca insieme a chiunque. Sperava che tutti vedessero che Molly danzava con un lord. Eppure era infastidita che fosse caduta lei e non a Cinzia di essere la dama prescelta. Si domandò se la semplicità nel vestire fosse divenuta la moda più in voga e rifletté sulla possibilità di indurre astutamente Lady Harriet a presentare Lord Albert Monson a Cinzia, la propria bellissima figlia. Molly scoprì che Lord Hollingford, il saggio ed erudito Lord Hollingford, era stranamente imbranato nel comprendere l'enigma dell'incrociar le mani e ritorno, separarsi e avvicinarsi di nuovo. Non faceva che prendere la mano sbagliata e star fermo quando era tornato al posto, del tutto ignaro del fatto che i doveri della società e le leggi della danza richiedevano che continuasse a saltellare finché non fosse giunto all'estremità della sala. Egli si rese conto di aver eseguito quella parte molto male e si scusò con Molly quando raggiunsero quel rifugio di relativa pace. Espresse il proprio dispiacere con tale semplicità e calore che Molly si sentì subito a suo agio insieme a lui, specie quando le confidò la propria riluttanza a ballare e le rivelò di averlo fatto solo perché costretto dalla sorella. Molly lo considerava un anziano vedovo all'incirca dell'età di suo padre e poco alla volta i due iniziarono a conversare amabilmente. Da lui la giovane apprese che Roger Hamley aveva appena pubblicato in una rivista scientifica un articolo che aveva destato considerevole attenzione perché confutava una teoria di un grande fisiologo francese e dimostrava che il suo autore possedeva conoscenze straordinarie e elevate sull'argomento. Questa notizia fu molto interessante per Molly e con le sue domande ella stessa manifestò una tale intelligenza e una mente così ben preparata alla ricezione di informazioni che Lord Hollingford avrebbe trovato la propria ricerca di popolarità una questione davvero molto semplice se avesse potuto continuare a chiacchierare tranquillamente con Molly per il resto della serata. Quando la riaccompagnò al suo posto, vi trovò Mr. Gibson e iniziò a conversare con lui fino a che Lady Harriet non tornò un'altra volta a pungolarlo a compiere il suo dovere. Non molto dopo, però, egli si rifece vivo al fianco di Mr. Gibson e cominciò a raccontargli dell'articolo di Roger Hamley, di cui il medico non era ancora venuto a conoscenza. Nel pieno della loro chiacchierata, mentre si trovavano vicini a Mrs. Gibson, Lord Hollingford vide Molly in lontananza e interruppe il proprio discorso per dire: «Che signorina incantevole vostra figlia! È così difficile parlare con la maggior parte delle ragazze della sua età? Ma lei è intelligente!» Piena di interessi in tutto ciò che è rilevante e di buone letture, poi. Conosce Le Règne Animal ed è molto graziosa. Mr. Gibson si inchinò, molto compiaciuto di un tale complimento, proveniente da un uomo simile, indipendentemente dal suo rango. È molto probabile che se Molly si fosse dimostrato un'ascoltatrice stupida, Lord Hollingford non avrebbe notato la sua bellezza, o forse si potrebbe asserire il contrario. Se lei non fosse stata giovane e carina, lui non si sarebbe sforzato di parlare di argomenti scientifici in modo da renderli comprensibili. Ma in qualunque modo Molly si fosse conquistata la sua approvazione e la sua ammirazione, non c'erano dubbi che se le era guadagnate. E quando ritornò di nuovo al suo posto, Mrs. Gibson le rivolse parole dolci e un grazioso sorriso. Infatti, non ci vuole una grande capacità di ragionamento per scoprire che se un'ottima cosa... Che se è un'ottima cosa essere la suocera di un magnifico pascià a tre code, questo presuppone che la moglie che costituisce il collegamento fra le due parti vada d'accordo con la madre. Fino a questo punto si erano spinti i pensieri di Mrs. Gibson a proposito del futuro. Ella desiderava solo che quella fortunata occasione fosse capitata a Cinzia invece che a Molly. Ma Molly era una creatura docile, dolce, molto carina e considerevolmente intelligente, come aveva affermato Milord. Era un peccato che Cinzia preferisse la modisteria ai libri, ma forse era una cosa che si poteva correggere. Ed ecco Lord Kemnor che si avvicinava a parlarle e Lady Kemnor che le faceva cenno indicando un posto accanto a sé. Tutto sommato, per Mrs. Gibson non fu un ballo insoddisfacente, anche se il mattino dopo pagò le tipiche conseguenze dell'essere rimasta alzata oltre l'orario consueto, sotto le luci abbaglianti e in mezzo al trambusto. Si svegliò irritabile e affaticata e parte di quelle stesse sensazioni opprimeva sia Cinzia che Molly. La prima giaceva languidamente sul sedile sotto la finestra, con in mano un giornale vecchio di 3 giorni che stava fingendo di leggere, quando le parole della madre la fecero sobbalzare. «Cinzia, non puoi prendere un libro e tentare di migliorarti! Di certo non varrà mai la pena ascoltare la tua conversazione se non leggi qualcosa di meglio di un quotidiano!» «Perché non riprendi il tuo francese? C'era un libro francese che Molly stava leggendo, Le Règne Animal, mi pare!» «No, non l'ho mai letto», precisò Molly arrossendo. Mister Roger Hamley a volte ne leggeva dei brani ad alta voce. La prima volta che sono stata a Hamley Hall e mi spiegava di cosa trattava. Oh, bene, immagino di essermi sbagliata. Ma fa lo stesso. Cinzia, tu devi davvero impegnarti a migliorare le tue letture, tutte le mattine. Con una certa sorpresa di Molly, Cinzia non replicò. Obbediente, andò a prendere fra i suoi libri della scuola di Bologna Il secolo di Luigi XIV. Ma dopo un po' Molly si accorse che, proprio come il giornale, questa lettura alta costituiva per Cinzia solo il pretesto per pensare ai fatti suoi